di libertà, di ascoltare un silenzio che nessuno sa. Correre, correre dove chissà, forse oltre il vento che ci comprerà. Voglia di fantasia, dell'insano tormento che ci porta via. Sentire il battito della follia, afferrare l'istante che ci sfuggirà, stretto nei pugni e nelle mani, lungo nei polsi, nei tuoi respiri. Voglia di verità, di inseguire il miraggio che poi svanirà, oltre lo spazio ed i confini bui, forse c'è la risposta che non troverai. Voglia di vita in noi, di imboccare il sentiero che non sbuca mai, sentire il fremito della paura, risalire dai fianchi, quei nostri sguardi, specchi infiniti, piatti in vetri socchiusi, fuori un freddo da cani, e dentro i frammenti, come cristalli, dove quel vento va. Voglia di libertà nei miei ricordi. Voglia di oggi e del domani, nei passi muti e una fame da lupi di tornare soli come smarriti.